approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Si chiama GNL, la nuova frontiera dei carburanti economici e sostenibili. Il gas naturale liquefatto è una risorsa che si ottiene sottoponendo il gas naturale a una serie di trattamenti che lo rendono liquido e quindi trasportabile rispetto alla sua versione gassosa in quantità molto maggiori nei serbatoi, a patto di mantenerlo a temperature molto basse, a meno 200 gradi centigradi circa. Si tratta di un liquido inodore e trasparente che può essere utilizzato sia per il trasporto terrestre sia marittimo e che, oltre a costare meno degli altri carburanti, ha un impatto meno oneroso per l'ambiente. Per essere utilizzato, però, ha bisogno di strutture specifiche di distribuzione. Per queste ragioni, la Commissione europea ha stabilito che entro il 2016 i vari Stati membri adottino iniziative nazionali per realizzare centri di stoccaggio. Entro il 2025 dovrà invece essere realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL, sia nei porti marittimi sia su strada. Attualmente in Europa è la Spagna il paese col maggior numero di impianti rigassificatori e con il più alto numero di stazioni di rifornimento. L'Italia si è impegnata in questa direzione con il Piano Strategico Nazionale sull'utilizzo del gas naturale liquefatto e nel frattempo il Ministero dei Trasporti ha stabilito finanziamenti da 15 milioni di euro per l'acquisto di veicoli a metano, sia compresso CNG sia liquefatto GNL. Di GNL e di carburanti alternativi si è parlato nei giorni scorsi anche a Ecomondo, la manifestazione dedicata a tematiche ambientali che si è svolta dal 3 al 6 novembre a Rimini. Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, oggi ci occupiamo di carburanti alternativi. Parleremo infatti di GNL, ma non solo, perché cercheremo di capire quali sono i carburanti che potrebbero rappresentare in qualche modo il futuro dell'autotrazione. Nel 2014 il consumo mondiale di GNL è cresciuto dell'1% rispetto al 2013. Al contrario, il consumo di GNL in Europa ha registrato complessivamente una riduzione del 4% circa. I principali importatori europei sono Regno Unito e Spagna, mentre l'Asia rimane il principale driver della crescita dei consumi di GNL e nell'ultimo decennio ha visto tra l'altro raddoppiare le proprie importazioni. Cominciamo a parlarne in compagnia dei nostri ospiti, il primo dei quali è Diego Gavagnin, coordinatore scientifico di Conferenza GNL. Gavagnin, innanzitutto che cos'è Conferenza GNL? Conferenza GNL è un'iniziativa indipendente, c'è stata già la terza edizione con ospiti internazionali e nazionali, anche una parte fieristica, e vuole promuovere l'utilizzo del GNL come carburante alternativo agli attuali benzina e diesel, solo per i trasporti di lunga gittata, quindi i camion e i trasporti marittimi, in futuro sicuramente anche quelli ferroviari, certamente quelli aerospaziali. Ecco, perché oggi GNL potrebbe essere un'alternativa valida ai carburanti tradizionali che ha citato prima? Perché ormai il trend è più che al costo. Peraltro anche il GNL, che è poi semplicemente del metano liquefatto, ha una grande concorrenzialità anche di costo con il petrolio, però il trend ormai è quello ambientale. Il metano è un combustibile fossile che inquina però molto, molto, molto meno del petrolio. Non voglio togliere niente al petrolio, se oggi abbiamo la civiltà che abbiamo lo dobbiamo adesso, fuori discussione. Dopodiché però l'umanità, si sa, cerca sempre il meglio, il metano, certo, riduce drasticamente le emissioni di CO2, soprattutto azzera le polveri sottili e riduce quasi a zero sia gli NOx, cioè gli ossidi di azoto, e lo zolfo. Ecco, questo per quanto riguarda il GNL, ma il gas liquefatto non è l'unica sola fonte alternativa al carburante tradizionale, ce ne sono anche diverse altre, e ne parliamo con Franco Fenoglio, neo presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE. Ci può spiegare innanzitutto che cos'è UNRAE? La sigla vuol dire Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri. Noi copriamo il 70% del mercato ormai, perché tutte le marche estere sono molto importanti al nostro paese, quindi a pieno titolo abbiamo un'importanza ormai fondamentale anche nei confronti del nostro paese. Trasporto su gomma si sa che è in crescita, ormai abbiamo raggiunto il 90%, quindi è importante parlarne in modo positivo, cioè nel modo per poter migliorare sempre di più le cose. Abbiamo parlato nella prima parte della nostra trasmissione di GNL, ma in realtà il GNL non è l'unica forma alternativa di carburante. Quali sono le altre? Il GNL è una fonte veramente importante, solo che scontiamo il problema dei distributori. Ad oggi in Italia abbiamo ben due distributori, forse un domani anche tre. Siamo molto molto lenti nella distribuzione e quindi questo impedisce al veicolo su gomma di poter essere più ecologico. Sappiamo che per essere ecologici oggi bisogna trovare delle alternative, questa sarebbe un'alternativa molto valida, ma purtroppo è molto difficile da attuare, anche se i costruttori tutti siamo tutti pronti. Poi ci sono altre alternative, ecco, che appunto sono l'HVO, che è un carburante sintetico pronto, se ne parla molto poco. Anche qui i nostri motori sono pronti a poter partire, per così dire, con questo tipo di carburante alternativo. Niente, non c'è nessuna distribuzione, non se ne parla, non si capisce bene cosa sia, forse bisognerà poi approfondire in un'altra sezione questo tipo di novità. I motori sono pronti. Dico una cosa magari anche simpatica, come sempre noi italiani a volte ci diciamo che non siamo così bravi, ma siamo stati i primi a produrlo, lo stiamo producendo a Marghera. La Eni è l'azienda che sta producendo questo tipo di carburante, lo esportiamo nei paesi del nord, ma non in Italia dove non è distribuito. Anche in questo caso è solo un problema di distribuzione, perché la tecnologia invece già c'è e addirittura lei mi sta dicendo che questo carburante può già essere utilizzato sui veicoli che oggi circolano sulle strade. Assolutamente sì, infatti mi farebbe molto piacere, lancio qui un appello a tutte le aziende che producono e distribuiscono carburante, di poter fare a volte magari qualche incontro comune per vedere di allinearci su quello che è la tecnologia del veicolo industriale e quelle che sono le possibilità di queste aziende, perché lavorando insieme, che è quello che personalmente porto sempre avanti da tanti anni, penso che potremo fare del bene tutti insieme. Ecco, il tema del carburante alternativo è strettamente collegato al tema del ricambio del parco veicolare, anche su questo ovviamente c'è bisogno di un intervento. Secondo me assolutamente sì, è da anni che il settore del trasporto lo richiede. Faccio presente che il 72% dei veicoli industriali che circolano nel nostro paese, sul 90% del trasporto su gomma, sono ante Euro 4. Solo l'1,6-2% è Euro 6. Con questo ritmo di cambiamento, anche con la crisi che ci ha distrutto i nostri mercati, ci impieghiamo anni a poter fare questo cambiamento. Allora perché non sveltire in maniera molto importante il ricambio? Perché già togliendo dal nostro mercato i tipi di veicoli, diciamo, progettati in tempi passati, potremo fare un balzo avanti con riduzione di CO2 di grandissimo livello. Quali sono le altre tematiche in questo momento al centro dell'attenzione di Unrio? Ma noi stiamo combattendo questa battaglia che è quella dell'occupazione. Si è parlato di Alitalia, di Acciaierie Terni, si è parlato di tantissime cose, ma non si parla mai di questo nostro settore, che è strategico secondo me per il paese, anche perché forse è un po' specifico, un po' difficile da comprendere, ma noi abbiamo perso praticamente 200.000 persone negli ultimi 5 anni, dal 2008 con questa crisi, il mercato è sceso dell'80%, eppure tutti i giorni noi riceviamo a casa nostra tutto quello che si necessita per poter mangiare, per poter vivere, e nessuno se ne rende conto. E parliamo solo del nostro settore quando ci sono dei disastri, incidenti o cose del genere. Invece è ora di metterci attorno a un tavolo tutti insieme, secondo me, per metterlo in evidenza, perché abbiamo perso concessionari, officine, meccanici, e io credo che nello settore sia un grande spazio per l'occupazione giovanile. Penso che potremo veramente portare al nostro settore i giovani, che non sono solo degli autisti, ma potrebbero essere tecnici, logistici, che potrebbero veramente far fare un salto al nostro paese. Ecco, ma in questo momento c'è mercato per questo tipo di lavoro e questo tipo di attività? Ci sarebbe, nonostante questa grande concorrenza dei paesi dell'est che arrivano con persone, chiaramente, a volte lo dico in maniera molto importante, poco preparate ma pronte a prendere subito questi lavori, perché non si parla bene del nostro trasporto e soprattutto non si fa formazione. Io credo che ci sia la necessità, faccio un appello a tutti affinché si possano costruire università, scuole di logistica, che è una materia molto importante, che ridurrebbe i costi in maniera drastica anche al nostro paese, ridurrebbe l'inquinamento. producendo nei nostri giovani una scolarità che renda appeal questo settore. C'è la possibilità, ne sono convinto, mi piacerebbe veramente lavorare con tanti attori affinché questo si attui il più in fretta possibile, è un po' un mio sogno questo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarvi vi ricordo che questa produzione è realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato prossimo alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.